we should have done before. The way things are going, the end is about to fall. Scriptures in the sand. Ready, nature's calling, take heed of the warning. We took the wrong step years ago. We took the wrong step years ago. We took the wrong step years ago. Ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends, a microfono come sempre Gianluca. Altra intervista, questa volta è il turno di una formazione vicentina che viene a presentarci il suo disco. Gli ospiti come sempre alle presentazioni: Luca Capalbo, bass guitar; Mirko Marchesini, chitarra; Davide Pretto alle tastiere; Zaupa Giuseppe, chitarra. Siamo gli Hypnotetico di Vicenza per voi ragazzi. E con gli Hypnotetical, una prima parte in cui ascolteremo alcune formazioni hard prog degli anni 70, partendo dagli Hawkwind, che dal disco In Search of Space del 1971 ci hanno fatto ascoltare la canzone We Took the Wrong Step Years Ago. Difficili da incasellare, gli Hawkwind hanno fatto della sperimentazione musicale delle tematiche cosmiche il loro punto di forza nei tanti anni di storia costellati da un turbinio di cambi di formazione. Che ne pensate? Beh, gli Hawkwind sono leggendari per i metallari, perché sono stati la formazione che ha dato, diciamo, la prima chance a Ian Lemmy Kilmister dei, certo, Motorhead. E questo disco è spettacolare. Io adoro anche Space Ritual, il live, il doppio live. E il Dave Brook è leggendario. È ovvio che noi, da buoni metallari, ci soffermiamo sul momento Lemmy, diciamo. Adoro l'altro disco spettacolare. E cosa dire? Grandi, grandissimi, sicuramente, almeno personalmente, molto ispirativi. Hypnotetical sono attivi dal 1999 e recentemente hanno avuto anche dei cambi di formazione. Come vi siete formati e su cosa si basa la scelta del nome? Beh, noi Hypnotetical ci siamo formati nel 1999. Abbiamo cominciato come tutti i gruppi del nostro genere facendo cover, poi pian piano abbiamo cominciato a comporre musica nostra originale. E questa nostra musica si è sempre orientata verso un genere che abbiamo sempre definito progressive metal, anche se non deve essere inteso come il classico progressive metal alla Dream Theater, ma quel progressive metal influenzato da band quali Tool, Porcupine Tree, Pain of Salvation, oppure, per entrare proprio nel più estremo, nei Meshuggah. Proseguiamo il nostro viaggio con i Birth Control, la band tedesca dal batterista e cantante Ben Tarnowski, ancora attiva dal disco Operation del 1971 con il brano The Work Is Done. Thank you. Negli anni 70 le band tedesche si sono distinte per un sound originale che pescava dal prog rock senza imitare del tutto le band inglesi. Che ne dite? Gli Amundul mi vengono in mente come band che più mi ha colpito. È una diramazione che abbiamo, almeno personalmente, ho approfondito poco, perché ho approfondito con i King Crimson, certo. Diciamo, Van der Graaf, i classici, sì, sì, anche la scena italiana, Io Sanna, il balletto di bronzo, Area, sì, la locanda de... Sì, insomma, la parte tedesca l'ho un po' trascurata effettivamente, l'ho sempre vista più psichedelica che mai, non che non mi interessi. Però è una questione di gusti personali. Mi piace tanto Yeti di Amundul, Fallus Day, però non ho una cultura in merito, voglio essere sincero. Vostre performance, come sono andate finora e come ha reagito il pubblico ai live? Beh, allora, performance, l'hai già detto tu, sono 10 anni ormai che la band è in piedi, quindi... Allora, devo essere sincero, all'inizio... le performance, i live show in genere comunque erano veramente pochi, perché comunque la band si dedicava veramente alla composizione degli album, poi come si può sentire insomma dai nostri mini CD e anche l'ultimo disco, le canzoni sono articolatissime. Ovvio, poi si è puntato più alla promozione e quindi abbiamo cominciato a girare, abbiamo fatto comunque un bel po' di concerti. Ultimamente ci è andata un po' male, perché un paio di date ci sono saltate nel milanese, ma ci rifaremo sicuramente. E niente, speriamo che il futuro ci riservi veramente tante date e soprattutto situazioni che contano, insomma. Questa prima parte finisce con i Quatermass, il trio hard prog guidato dal batterista Mick Underwood e dal bassista John Gustafson, dal loro unico omonimo disco del 1970 con la canzone Up on the Ground.